Сахаров, около магазина «Лента», курьерская служба «Индекс 78». Для упрощения оборота предлагаем следующие услуги. Курьерская доставка по СПб или Ленобласти. Сканирование, копирование и хранение на почте России. Работаем понедельник, пятница с 9 до 21, субботу с 10 до 18. Вопросы отвечаем только по телефону. 911-922-7827. Hola, GQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Dai, GQ 10, c'è qualcuno in ascolto? Per cortesia. Sì, aspetta che mi tolgo le cuffie. Prova adesso che avevo le cuffie. E per vedere se com'era la radio, mi interessa, che gli ho attaccato l'MC60, l'ho attaccato all'altro. Beh, è buona Natalino. Ma amplificata rimane? No, assolutamente. Ma le MC60 non amplificano. L'MC60, perché io non credo che non abbia mai amplificato, è solo un ottimo microfono ma installato nella radio adatta a lui. E per regolare il macchinino, Rami, guarda adesso l'ho messo al massimo il macchinino, più forte è la radio. Adesso è molto più forte, certo, così è molto più forte, sì, è buona. Guarda, così com'è? No, così non ci sei, così è quasi zero, anzi diciamo meno zero. Perché avevo spento il microfono, capito, per vedere se funzionava la situazione. Ok, sì. Allora così già va bene, però se l'aumentavi è ancora meglio, è ovvio, è più forte. Ma quello non è che è dovuto all'amplificazione, è aumentato solo il volume, basta, ma non è che è amplificato, no? Vabbè, dai, l'importante è che esca bene il radio, mi interessa quello, che esca bella forte la radio, dai. La radio è bella forte, però ascolta, metti la portante senza parlare, perché sento dei disturbi sotto, non so se il microfono sta facendo un rumore ambiente lì da te, prova a vedere senza parlare. Ci sarà la televisione perché bassa bassa? No, niente, già va bene così, è solo un leggerissimo rumore di fondo, ma non c'entra niente il discorso ambiente, eccetera. Perché magari sto uscendo io con un coso, ti sto ascoltando attenuato un po' le parole. Ok. Però già va bene, dai. Però se l'aumenti è più bella, se ti interessa averla un pochino più forte, l'aumenti, come hai fatto poc'anzi, è più bella anche. Vabbè, giù, aspetta un attimo che c'ho gente. Va bene. Avanti, chi è? Giulio. Oh, ciao. Allora. Piove, c'è vento e le burrasche devono ancora arrivare, a quanto dico. Noi siamo qua. Quando arrivano, ce le prendiamo e ci proteggiamo. È freddo, non so, adesso, quest'altra settimana, non so quanto deve calare. E il danno sta facendo da altre parti comunque. Lo so. Si dice perlomeno in Sardegna dovrebbe arrivare domenica un freddo più intenso di tutti gli altri giorni sino a questo momento. Anche la neve. allora noi non ci so. Com'è che si chiama la secca di gennaio? Come si chiama? Boh. Non me ne intendo di quale cosa io, non lo so. Ascolto solamente il meteo tutte le mattine presto, alle 7:30, da la tele, come si chiama? Radio regionale, dai, cioè la televisione regionale, Rai 3. E per cui così adesso, così in questo recente. Boh, non lo faccio, non lo faccio. E vabbè, comunque. L'influenza me la giù passata e me ne frego, adesso sto bene. E mi stati a, allora al pranzo questa videolina a Cagliari lo pendei del per i vaccini, in fila chilometrica per farsi i vaccini, l'hanno intervistato, uno ha detto io li ho fatti tutti e sei, Cagidula, io li ho fatti tutti e cinque e faccio anche gli altri, anditi, agita, anditi. Già ho sentito quell'intervista, sì, quello di sei vaccini. Oh, yeah. Ma io non sono andato da nessuna parte, ho preso, però me lo penso che era influenza, perché non è che ho avuto febbre, non ho avuto niente, ho avuto solamente dolori, sono sicuro a gran carriera, dolori muscolari a partire dalla testa fino alle gambe, le gambe tutte a punture, mi venivano degli impulsi così, no, delle fitte sino alla punta, alla pianta del piede, poi avevo le gambe come quando uno è bruciato dal sole, no, che ha esagerato prendendo il sole, che tocchi la pelle che è delicata, no? Anche stando seduto, poteva via tutte le nate che non potevo stare nemmeno seduto perché mi raschiava il pantalone sofficissimo, molto di quelli messo apposta proprio per non farmi male. Eppure me ne sono passati un po' di giorni, da Natale fino avanti ieri avevo un leggero mal di collo, però adesso sembra che sia passato del tutto. Ma ora la giusta, mamma mia, mi manca Burulissa. Ebbene Natali, fammi sentire il nuovo questo microfono, aiuto. Aspetta un attimo giù che ci ho collegata una cosa che devo staccare. Vabbè, collega e scollega. Natali, mi allontano un attimo che vado a controllare se c'è pelle che è abbastanza rassupa, se no mi si spegne senza, magari perché non ho messo pelle. Giulio, oh Giulio, ci sei? C'è qualcuno qua? Ah, vai da, hola. CQ10, c'è qualcuno in ascolto? Hola, vabbè. Ci sono sempre io. Giù, volevi sentire il microfono, però ti chiamavo e non rispondevi. E ti ho avvisato che stavo scendendo giù a aggiungere pelle, se no mi si spegneva la zuppa. Adesso sono ritornato. Non ti ho sentito perché c'avevo gente giù e non potevo validare, compreso. Io ho capito. Va bene. Comunque, ascolta, dimmi una cosa, siccome avevo prima un problema con carica batteria del telefonino, era attaccato nella stessa presa e dunque mi ronzava quando mettevo, quando parlavo, dimmi se ronza ancora adesso che mi spostate in un'altra presa l'alimentatore. Vai. Ma ronzio non ne sento io. Allora pulita, senza guarda, ti metto la portante per un attimo senza parlare, così puoi ascoltare meglio. Vai. Negativo, giù, negativo. Ok, perché l'ho spostato, dai. Perché prima quando mettevo la portante, se c'era l'alimentatore attaccato, come in questo momento, mi ronzava. Vabbè, comunque vuol dire che va bene così, perché l'ho spostato in un'altra presa. Vabbè, giù. Anda bene Meda. E qui avevo gente e non potevo avvisare e ti ho avvertito per quello, capito? comunque la radio come va adesso? La radio è buona, no? Non ci sono dubbi, però per il cassone non ce n'è. Però la radio è buona, è ultima. Non è un semplice microfono, insomma, è un buonissimo microfono. Però l'amplificazione dall'NC60 non te ne aspettare. L'amplificazione te la dà quando utilizzi la radio adatto a quel microfono. E tanto io non ne voglio amplificazione perché non... Qua è un casotto con l'amplificazione. Per eliminare l'ho fatto l'MB più 4M, che amplifica troppo e magari si sente la televisione, rumori molesti e di tutto e di più. È per quello, Emmy. Tanto poi lo uso in banda laterale questo, quindi non ne bisogno di amplificazione. Appunto, va bene, così va bene allora. Non c'è problema, però la radio è bella, pulita, è bellissima, no, non c'è che dire, ma è così, no, volevo solo chiarire quel particolare, no? Tu mi hai detto che l'MC60, no, per più ragione l'MC60 non ne ha, c'era solamente la radio insieme all'MC60 quando, soprattutto quando metti il processore. Allora sì che c'è l'amplificazione, ma è la radio che ce l'ha l'amplificazione, non il microfono. Lo so, questo non è a processore, capito? C'è solo il macchinino e buh. Ok, va bene. Perfetto, comunque, non c'è problema. Cazzo. Vabbè, dai, speriamo che entri qualcuno così... faranno sapere. Ok, vabbè, comunque andava così, io ti sento benissimo, chiaro, è anche abbastanza forte, non c'è che dire, ci mancherebbe, ma per dire, su dove l'hai abbinato? Su l'ICOM? Via, l'ho messo, perché intanto a me, siccome c'avevo quella V508, che ce l'ho ancora, no? Però quello lì mi fa falso contatto, il tasto è duro, no? Molte volte non ce la faccio, e mi sgancia la portante. È per quello che ne l'ho tolto, e così posso eliminare l'MB più 4, oppure che amplifica troppo. Ok, sì. No, va bene. Va benissimo, è leggermente più acuta, là, nel senso che tu hai una voce baritonale, no? Proprio di quelle corpose come piace a me. E con questo invece ce l'hai un pochino più chiara, più acuti, dai, diciamo, meno bassa in poche parole, però è chiarissima, è bella. Infatti, no, a me mi interessava quello che era comprensibile e forte come radio. Non sarà amplificata, però già va bene. Se te lo sto dicendo, va benissimo, non bene, benissimo va. Altro che, d'altronde, col microfono costa una barca di soldi. Io ce l'ho sempre, proprio poco fa l'ho conservato, l'ho messo dentro una scatola e l'ho conservato, me l'ho messo da parte, insieme ad altre cose, per cui anche per nonno, un nuovo, ma chi è? Già, ma non lo attacco da nessuna parte, non mi interessa. Aspetta che c'è stato uno che voleva un controllo, avanti. Buonasera California, era questa, volevo sapere se vi siete fatti. A voglia che ti sento, fra. Giù, da un controllo a cosa, stai uscendo bene, fra. Ciao Giulio, buonasera. Ciao Fra. Sempre dove stessi video vai giù di chiedere controlli sopra modulazione. Ya lo sai che ti intendimo, ya lo sai, non c'è bisogno che ce lo fai sentire tutte le volte. Ha voglia se ci sentiamo, se lo sentiamo a te che dobbiamo sentire. Perché stavo provando questo barattolo che ho in macchina e volevo sapere se stava andando bene o meno, tutto qua. Riprendi Giulio. Già sta andando bene, un po' nasino e si vede che hai un po' di potenza, però già va bene, non c'è problema. Cappa, dai, dai. Eia, anda bene me da fra. Come mi stai ascoltando? Io ho cambiato un microfono, ho messo. Va benissimo, Nassari, ti ascolto bene. Ok, anda bene Meda. Alla grande. Cosa hai detto? stretto, fra. Stretto che va bene alla grande. Eia. Io sto usando invece un microfono da Umpua. E io ho cambiato microfono perché quelle MB più 4 mi dicevano solo che amplificava sempre, me lo dicevano, che amplificava troppo, che si sentiva il televisore, un sacco di cose. Con questo non si dovrebbe sentire. Va benissimo questo qua. E sono anche lontano dal microfono, tutta la lunghezza del braccio. Andare, va benissimo. Oh Giulio, adesso forse mi ascolti meglio, No, ti ascolto sempre compreso, ti ascolto compreso, forte ma compreso. Stavo dicendo, andate lì, ma la televisione deve essere accesa sempre allo stesso modo come prima, per vedere se fa effetto o del rientro quel microfono, ma io non sento niente, la televisione non la sento. Perché questo è diverso dall'MB più 4. È acceso. È basso ma già è acceso. Se mettevo l'MB più 4 lo sentivi pure forte. Lo so che è così. Sì, va bene. E appunto è quello proprio perché l'MB più 4 è amplificato. L'MC60 non è amplificato. Però è un ottimo microfono. Non c'è che dire, ci mancherebbe altro. Avanti Franco. Questo è l'infatti, no va bene, io l'ascolto benissimo qua. Io sono in macchina Giulio, capito? Sono in mezzo al palazzo. Già ho capito che sei in macchina, lo so che sei in macchina, ho capito. Però la voce non è che sia proprio così chiara, è forte ma non è chiarissima, è quello che intendo. E adesso dovrebbe andare meglio comunque. Adesso va meglio, certo, ma se attacca va meglio di sicuro, anche non sappiamo che usi, c'è bisogno di tante spiegazioni, no? Ma infatti era attaccato io. Appunto, non è che lo devi spiegare, già lo sappiamo, da voi 50 anni e oltre di frequenza qualche cosa abbiamo imparato, vero Natali? E mi pare di sì. Vabbè, adesso sto scendo liscio con i suoi batti. Adesso stai andando bene, allora fai un po' di chifo, ti sentivo bene, più forte, però fai un po' di chifo. Adesso la tua radio, ottima, chiara, bella e anche potente. Gappa, vai Natali. Infatti adesso si vede che sei staccato. E sì, benissimo, non c'è bisogno di attaccare il Sassari. Siamo due torri di grappa e siamo uno vicino all'altro, figurati un po'. Ma è così Natali, è più forte di certe persone, la potenza, se non mi potenza no. Non sono contenti, ma lo sappiamo, no? Non è che ci vuole molto a capire quando uno è attaccato o quando non è attaccato, soprattutto quando poi ti dà la controprova, staccando e sentendolo di nuovo, perché la radio è molto, ma molto superiore come qualità. Sarà meno forte il segnale, però la radio diventa molto più bella come qualità. Vai, fra. E allora, non ti devo insegnare niente, non ti devo insegnare niente, ma a voi, a me puoi attaccare, mi ti piace, non me ne frega niente, io sono sempre per lei, sono democratico, ognuno fa quello che le pare e le piace, per cui non c'è problema, non mi lamento, però se mi chiedono un'opinione gliela do, come sento, non gliela devo dare distorta o con bugie e fasulle. E infatti, se uno esce in disaturo ve lo dimmo, capito? I noghi devo buoni tutta pulce, gata, che mi stava ammassando per attaccare questo microfono. E allora poi alla fine ce l'hai fatta, no? Meglio così, dappertutto qui c'è un microfono da 170, 180 euro. Per cui se non esce bene quello, come qualità, io parlo di qualità, no, quale può essere bello? Premesso anche che non è magari adattissimo a quella radio, però il microfono il suo valore ce l'ha. Eh poi funziona bene, questo mi serviva per quando lo uso in banda laterale. Questa qui com'è? Cioè quella della V508, più forte di questa, eh. Ah, io non me lo ricordo quella della V508, non me lo ricordo, non so cosa dirti. Già entro di tanto in tanto, io figurati se mi posso ricordare tutte le modulazioni. No, non me lo posso ricordare, dovete fare le prove nel momento, ma allora ti sarò prodire, ti saprò dire. Sì, vabbè, quando metto tutto a posto qua faremo le prove, attacco uno e l'altro, così mi dici qual è il migliore. Però mi uso questo perché questo è più funzionale, dai. Io non mi piace. Vari dati dolci e molte volte si stanca il dito, si stanca e te ne sale la portante. Invece se sì, ma io sono 50 anni che sto guidando sempre il microfono, non c'è motivo di stare cambiando sempre gli addanti, che se ne frega, va benissimo così. Io ho questo da una vita, pensa che la primissima versione dell'MB4, quello che ho io, tutti mi dicono che va bene, e allora per motivo devo chiamare e piegami una salita. Infatti, io l'ho voluto togliere da mezzo perché è troppo scandaloso come microfono. L'altra volta l'ho dovuto abbassare a 1, mi pare, perché anche se era basso il televisore, lui lo prendeva lo stesso, è troppo sensibile come microfono. Eh sì, prendeva più le fonti esterne che la tua modulazione, lo so che è così, purtroppo è così, chiaro guido. Se io parlo dal piano di sotto, a 2 piani sotto, da dove sono adesso, figurati se non prende. Prende ugualmente, altro che, ma e te lo dico perché? Perché me ne accorgo io dall'oscillazione poi dello smitter che sta recependo la modulazione, per cui lo so, anche quando io non parlo, però che sono così in ascolto, quando c'è qualcuno che parla qui a casa mia a 2 piani sotto, l'impulso dell'oscillazione c'è, allora quello cosa significa? Significa che sta modulando. Sì, infatti, è proprio così. No, questo è comodo, mamma mia, non mi sembra vero di averlo attaccato, dai. Certo, quello è comodo, sì, poi hai il locker che qui lo puoi mettere fisso, volendo ci parli, poi lo stacchi, anziché usare la portante, puoi usare la portante del locker, puoi usare, va ultimamente bene anche quello. Infatti l'ho usato il lock proprio per quello, perché mi serve per scrivere, no? Quando sto parlando allo stesso tempo scrivo, non devo tenere il dito a schiacciare il microfono. È mille volte meglio questo qui di quell'altro. Ovviamente, no, ma comunque anche l'MB4 già blocca, perlomeno il mio blocca, eh. Il mio blocca perché quando schiaccio lo sposto appena sulla destra e c'è il bloccaggio che rimane da solo, no? Perlomeno quello che ho io, l'MB4 è così, poi c'è gli altri moderni, quelli di oggi, sono diversi, non te lo so dire. No, ma io non stavo parlando dell'MB4, della V508 stavo parlando, capito? L'MB4 lo so che si blocca anche il coso, come si chiama, la V508, però è difficoltoso, non è come questo. Beh certo, sei difettoso, chiaro che... Franco era rientrato, sì, ci sei ancora? No, come al solito, sono la modulazione, ma adesso che era arrivato, vabbè, comunque, avanti Natali. E al limite entrerà da casa sua, era in macchina poco fa, va bene, no problem. Bravo, io ce l'ho acceso da... perché stavo facendo qua un lavoretto, stavo facendo... sistemando la situazione e ce l'ho acceso da alle 2:30 se me l'ho fatto, sono 20, quanti ci siamo? 5 minuti, sono le 16 minuti, dai, per la testa. Quando in tutta la sera non è entrato nessuno, comunque non è importante, io lo stavo facendo, non dovevo intanto stare attaccato. Io non c'ero, perché ero fuori, sono rientrato poco fa e mi stavo dilettando a saldarmi questo spinotto qua, ma adesso sono riuscito a farlo funzionare, infatti funziona proprio perché l'ho spento poco fa e si è abbassata di colpo la radio, capito? Io stavo sistemando l'auricolare ad uno smart TV che ho comprato qua per la camera poco, anzi che mi ha regalato mia figlia, e non c'era l'attacco per l'auricolare, strano, no? Però era tutto particolare, invece poi con un altro aggeggio ho fatto arrivare appositamente, praticamente è una modulazione ottica che riusciamo ad avere, e va benissimo, non c'è problema, tramite una scatoletta che si inserisce in una presa auricolare, che poi non è proprio presa auricolare, è una presa ottica, si inserisce lì e poi viene fuori la modulazione in cuffia, che prima non c'era assolutamente. E infatti giù, ma vabbè, sono contento che ci sono riuscito sempre a girare, che gira pure l'ho attaccato il microfono, però davvero mai riuscito, invece mi sono messo e l'ho sistemato, diciamo così, da. Aspetta un attimo, che devo dire, una vite del piedino qua, che è mollata. Era dopo, era. Lei già sentiva che stavi armeggiando. E beh, non l'hai stretta la vite, perché io avevo così l'assa dell'MBB4, avevo così, e dopo 30 anni più che lo stavo usando, si muoveva un pochino, perché era fissato tramite la vite da sotto, il piantone, no? L'ho aperto, ho tolto il tappo, ho stretto qualche già vite, e è una bomba, è come nuovo anche questo, nuovo, non è un graffio, e ce l'ho 30 anni, il mio di 30, forse me l'ha già 40 anni che sto microfono, ma non c'è un graffio, del mio MBB4. E anche a me l'assa del MBB4 me l'ha fatto quel difetto, ho aperto, ho stretto la vite ed è appunto, ed è sempre andato. Sì, beh, dopo tanto tempo, dopo tanti anni, a forza di prenderlo in mano, prenderlo, spostarlo, eccetera, la vite si allenta, anche perché i materiali dilatano, per cui può essere anche quello il motivo, pure se è un materiale ferroso, dilata lo stesso. Dopotutto dilatano i binari del treno, se non dilata un lamierino di un microfono, ma... ho capito, che vuoi fare? Troppo. Vabbè, niente, cosa vuoi fare? Niente. Poi non parliamo di batteria, questa è una batteria, tu non ci crederai, ma questa è una batteria che io ce l'ho per almeno 3 anni, minimo 3 anni, guarda, che questo microfono. Non so nemmeno adesso quanti volte è, perché non l'ho più controllata, ma vedo che non mi hai detto niente, sta andando bene ugualmente, ma comunque la potrò anche cambiare, non è certo la spesa di una batteria che mi dà del battiglio, ci mancherebbe altro, anzi probabilmente ce l'ho anche, se non ne prendo una di quelle da ricaricare, perché ce li ho, ne ho almeno 2 o 3 di quelli che si ricaricano, ma quelle ricaricabili non le avevo più utilizzate e stavo usando quella normalissima, non so cosa è, Stamattina sono andato e mi ho comprato la pompa per la doccia. E quindi la tosse. E quindi gliel'ho comprata nuova, così vediamo un po' come funziona questa qui. È diversa. Se è comprata nuova deve funzionare bene, ci mancherebbe altro. Vorrei vedere. Col tempo si sa, anche quella si è indurita, non so da che cosa può dipendere, però anche quella col tempo si indurisce, soprattutto quando passano carburante e cose varie, è ovvio che succede qualcosa del genere, succede. Sì, ma poi si vanno a passare a Piazza di Manco, mi raggio comprare da nuova su Manzano, adesso la devo piazzare. Va bene così. Ma io parlando di pompa, ma pompa della benzina della macchina avevo cambiato io, perché mi ero reso conto che c'era, quando la mettevo in moto andava bene, però poi quando spegnevo c'era un odore di benzina. E cosa era? Era un problema di 240 euro. Sono andato, l'ho fatto cambiare, ma questo è già un paio di mesi fa, eh. E adesso è perfetta. Dopo 14 anni il collare, il tappo, cos'è, boh, di plastica, si era un po' usurato e dunque da lì si piazzava un po' di odore di benzina. E può essere anche pericoloso quando succede così. Sono andato al mercato e ho detto no, è la cosa della pompa della benzina, ci vuole nuova. Sono andato per la giudagata, me l'ha cambiata, 240 euro, tranquillo e pacifico, e va più che bene. Sì, 250 l'ho pagata quella del gasolio io, e mi era successo anche a me quel problema. E me l'hanno fatta pagare 250 euro perché sono elettriche, capito? Sì, sono elettriche, infatti appena che attacchi la chiave già incomincia a tirare benzina. Quando tu attacchi la chiave nel quadro, già la pompa sta già entrando in funzione, sta già tirando benzina, pronta proprio per la carburazione. Ma 250 euro che me l'hanno fatta pagare tantissimo tempo fa, che avevano messo acqua, erano tutte sporche le cisterne di quello che c'è vicino al cimitero, il fornitore. Io la mettevo lì perché quando lavoravo al comune la mettevo lì. Del gasolio. Si vede che la benzina ormai, il gasolio era già consumato, era arrivato al deposito, perché sotto nei serbatoi c'è l'acqua sotto, lo sapevi quello, e dunque se non riforniscono per tempo, quando c'è scarsità di carburante arriva l'acqua, e allora quando tu vai a fare il rifornimento ti prendi l'acqua anziché prendere il gasolio. Ma erano anche sporche perché mi ha crepato proprio la pompa, 250 euro mi è costata e non me ne hanno nemmeno pagato, perché quando sono andato a dirgli che mi avevano rotto la pompa del gasolio, il rifornitore era chiuso che stavano cambiando le cisterne, proprio a me dovia si dire. Purtroppo succede anche quello, cosa volete dire? Succede. Comunque anche nella benzina può capitare che ci possa essere qualche goccia d'olio, d'acqua e non d'olio, d'acqua, perché questo succede, che quando il rifornitore non chiede il rifornimento di nuovo, allora essendoci una certa percentuale di acqua sotto, perché la benzina rimane sopra, rimane, e allora a quel punto se non c'è più benzina, quando tu attacchi la pompa per fare il rifornimento succhia l'acqua, è ovvio, l'acqua la mettono per una questione di sicurezza, no? Perché se no se esplode il coso, non so come si chiama quella parola, una specie di pozzetto, e dai, tanto ogni tanto però va controllato se non c'è molta benzina o molto gasolio, tu vai a fare il rifornimento e ti aspiri l'acqua. Ma ti rompono anche la macchina, però così. Da poco mi è successo attorno che mi hanno messo attorno acqua. Meno male che la pompa non mi si è rotta, che è entrata solo acqua. Lì c'era pure sporcizia, in quello di... del cimitero, infatti hanno cambiato le cisterne, della sigla hanno denunciato un po' di niente, e a me non me ne ha pagato, te lo puoi immaginare, e c'era da mandargli la finanza lì. Purtroppo sono così, sono me ne freghissi, la gente me ne freghissa, non era tutto nulla, capito, e allora rimango fino all'ultimo minuto. Vedi che il carburante sta scarseggiando, tu non lo ordini subito, ma chiama subito la cisterna, te lo fai riempire, no? E invece no, aspettano fino all'ultimo momento, non so per quale motivo, è per rovinare le macchine degli altri, capito? Infatti, quella mia è delicata perché quei motori sono spinti, hanno la turbina ed è un macello. Capito se dico sì, infatti non le metto più, adesso vado sempre a Canica, che l'ho visto, il gasolio che è bello pulito lì sempre, capito? Non rifornisco più da nessuna parte, l'altra volta mi sono trovato costretto a rifornire da un'altra parte perché ero senza gasolio, però non rifornisco più da nessuna parte, solo là. Addirittura me ne hanno due fatto osservato io loro, quelli di Canica. L'abbiamo svuotato elettricamente con la pompa della benzina, mia stesso. E ne l'abbiamo svuotato osservato io. Infatti gli ho messo l'additivo, oppure ho messo poca di naffata, ne ho messo, e ho messo l'additivo pure per pulire gli iniettori, non si sa mai. Certo che sì. Guarda, ieri sono passato, che sono andato lì a Cittamercato per comprare il pellet, e nel deponitore che c'è lì di Cittamercato, senza esagerare, ci saranno state 150-180 macchine, uno dietro l'altro, in doppia fila, anche in tre file per fare il rifornimento. Ma dico io, beh, tutto questo perché? Perché costa leggermente di meno lì, no? Ma è dove l'intelligenza di un autista, se stai tre ore lì in fila per risparmiare magari, che so io, 2 centesimi, 3, 4, 5 centesimi al litro. Ma non sei poco intelligente, perché quando arrivare al fornitore, alla pompa, quei soldi te li hai già consumati e benzina, risparmio che farissi. A parte il fatto che magari uno arriva anche da lontano, no? Arriva per fare il rifornimento lì. C'erano tre file, minimo c'erano 150-180 macchine, una dietro l'altro, resistendo a fare il fornimento, mi vedo un gabbo, nemmeno quando c'è lo sciopero era così, eppure ieri era così a Cittamercato lì. E paghi su, io non ando da nessun luogo, va solo da Canica vado a rifornire, perché me l'ha fatta vedere la differenza. Grazie. Quello che ne abbiamo tolto dalla mia, oltre ad esserci l'acqua, era sporco proprio il gasolio, era scuro, invece quello di loro è limpido proprio, duro di vidi. Veramente bello il gasolio, che bello pulito quello del rifornitore doveva rifornire io. E infatti più da nessuno, a parte che io metto sempre il pieno, non lo lascio mai a riserva, capito? Cata, mi è toccato quasi il pieno, va vivo, mi è toccato una pazziva, e so di là. Beh, ho visto di là, certo, con quello che costa poi, tra l'altro. No, io faccio il rifornimento sempre, vabbè, adesso non sto consumando un po' che niente, perché sto uscendo un po' che niente. Però di solito io vado qua al fornitore che c'è alla rotonda, di fronte al mercato ortofruttico, che prende niente, viene il passaggio e tutto. O all'andata o al ritorno, mi fermo lì quando ho fuori la benzina e la metto lì, e dunque no. Ma sono anni che sto facendo sempre così. Io difficilmente cambio il fornitore, no? Non mi viene in mente l'ultimo rifornitore che abbia utilizzato al fuori di quello, sono anni, sempre quello uso. Anche io facevo così, sono stato costretto perché ero lontano da Sassari e mi sono accorto che avevo poco gasolio. E ho detto per sicuro adesso lo metto un po'. Però, che è pittina, mi tocca dura fatica. Purtroppo succede, cosa vuoi dire? Succede quando incontri persone che non fanno il lavoro come si deve. Per quello vuol dire non lavorare con serietà. Pazienza. Ma buona stare là. Due chiacchiere ce le abbiamo fatte, ti ho sentito. Adesso chiudo e me ne vado giù. Ok, ci sentiamo. Ciao Natalia, il microfono già sta andando bene, per cui tranquillo, non c'è motivo di fare altre prove perché stai andando benissimo. Ci sentiamo, ciao, saluti in casa, ciao. Ciao, altrettanto giù, grazie per le quattro chiacchiere, ci sentiamo alle prossime, dai. Se con ci rimango un po' in quei ricci, poi intanto devo mangiare. Per pigliarmi le pastiglie. Vabbè, dai, ci sentiamo. Buona Befana, se non ci dovessimo sentire, buon tutto, alle prossime. Ok, ciao, dai, ciao. Bambolino! Scucano alle 10, c'è qualcuno in ascolto? Chi è avanti? Stavo facendo una prova. Ciao Luca, mica ho messo quel microfono, come sta andando? Ascoltati col telefono. Come col telefono? Non mi posso ascoltare, le cuffie non le posso attaccare da nessuna parte. Sì, ma se apri il telefono ti ascolterai col video, no? Se guardi il telefono. Ah, ho capito, e vabbè. L'importante è sia chiara la radio, dai. Ehi, chiara già è chiara, però come un microfono normale alla fine. Ehi, a Rusogu. Chi ci vuole un rubrocessore? Se abbiamo un rubrocessore è stata una sagosa. Tanta cosa sì. Sì, l'avevo già fatta quella prova con l'altro. Ma carruccio non si. E cosa vuoi fare? Non è fatto per questa radio, è fatto per quell'altra, che purtroppo mi si è scassata per tenerla ferma. E quale? Il 440. Non sono riuscito ad aggiustarlo, l'ho dato a P. Ah, per pezzi di ricambio. Infatti io non ne avevo né soldi da spendere, ma ora non prendo più nulla, tanto ma siamo quattro corri di Iata e boh, cosa, non c'è nessuno mai, cosa spendi soldi? A me mi sarebbe piaciuto prendermi un 7300, quello già mi piace, che è piccolino e poi c'ha il processore, va tutto, la cuglia d'ori. Sì, il 7300 è bello, anche il 1200, ma il 1200 è stato un marrasone, ovvero quello che avevo io, il 1200X. E poi vabbè, 991, 7300, 710, tutti sono passati, bellissima radio. Lo so, non ce l'hai più il 1200? No, ho fatto quelle fermo, cioè no, prendevo uno e davo l'altro dentro, capito? Ho capito. Cosa ti volevo dire? Vabbè, cosa vuoi fare? Quel 1200 mi piaceva, a me era bello. È una bella radio quella. Sì, il 1200 sì, era grande anche. Traduttore CV doppio, un sacco di funzioni. Ma ormai sono tutti così, mi pesa poco. Te lo consiglio come radio, più il 710, il 7300 si imbarca in ricezione. Il 710? Ti consiglio il 710. Non la conosco, non l'ho mai vista come radio. Bella veramente. Ma com'è quella lì? Oia Iso. Dico. E dopo lo guardo a vedere, c'ho il computer spento perché mi stavo facendo questa storia qua. Seguite il vostro sogno, seguite la vostra passione. E quindi non ho potuto. Adesso mi accendo tutto. Tanto fra un po' devo mangiare. Sì. Devo mangiare. A che mangio i bigliari ma figli? Vabbè dai, ci sentiamo. Me lo guarderò a vedere che apparato è. Ah no, il coso è lo IAESU, il 710 della IAESU, il 7003 dell'ICO. Ah ecco, volevo ben dire, non lo conoscevo il 7000, il coso, il 710, da, lo vedrò. Il 710 c'è una bella differenza che puoi collegare tramite un classico cavo di stampante, ok, quello che usi dalla stampante al computer, lo collega appunto dietro la radio a un qualsiasi monitor con l'attacco USB e c'hai la radio in grande schermo. Io l'avevo collegata al 32 pollici, pensa tu, non devi fare altro che collegare il cavo da dietro la radio al monitor, entrare nelle impostazioni appunto e fare l'impostazione di usare il monitor esterno. Ma cazzo, una schermata, pensa tu, 32 pollici, canti la manna. E infatti, sono dei belli apparecchi, dai. Molto belli, ma molto delicati, bisogna saperci poi bazzicare dentro i menu, eccetera, eccetera. Però hanno DSP mostruosi, guarda, veramente eccezionali. E infatti, è che quello ha chiuso tutte le tegole, cazzo. Manco un dipolo mi busso buono. E per quello pure che sono frenato io. Perché cosa cacchio ascolti con questa antenna qua? Ma c'è appunto quando li riponendi, scusa non avevo tempo di preparativo, non l'avevi già fatto di poco. Quando eri alzato non tiravi in buccio, non avevi approfittato, no? Non ne avevo di pollo già pronto, nulla. Poi non ho attaccato niente, mi ho attaccato solo quella del televisore e l'antenna di qua. Basta, non va giù, se non taglia di studio. Quella ha chiuso le tegole, non ne ha messo bottola, no? Un bel casino. Speriamo in bene, anche a quello, se non caso. E beh, non c'avevi la veicolare, scusa, non puoi mettere un palo lì fuori dalla cosa? Non c'avevi l'antenna veicolare? Sì, l'antenna multibanda veicolare ce l'ho, però fuori dalla finestra sono al primo piano io. Metti un tubo, come prima, come eri prima, no? Come avevi messo l'altra antenna. E così mi dici che di qui, lui era in basso, me l'ho dovuta togliere, se no mi durava di nuzia. Non l'ho preso, mi hanno fatto un po' di nuzia a me. Ma se sta solo ricevendo quell'antenna, cosa cavolo stava disturbando, io a me avevano voluto. Beh, da me si mi dice che cosa, da rubalazzo. Non ci può che antenne e nessuno si è mai attaccato a dirmi stai disturbando, a parte che non disturbo. Ma neanche io disturbavo, mai ho disturbato. Disturbavo perché c'avevano le antenne tutte incasinate. Beh, se poi c'è qualcuno della televisione che sta funzionando male, non entra nulla, o digitale, o digitale, non entra più nulla. Se sta funzionando male, il segnale entra e blu. Infatti, non è venuta di qua. Perché se ne sono accorti che non ero io, sono venuti a controllarmi qua. Cazzo, e hanno visto che non disturbava nessuno. E loro che avevano le antenne tutte incasinate. Se una me ne è caduta in capo, giù mai, a rasura, amico. La ragabitudine ne farà da rasura. Ma è da un po' quanto era nuova di antenne. Sì, perché il problema non è la... Non c'entra niente la Game Master. Il segnale entra. Se le antenne delle televisioni non seguono, sono fasciate. Il segnale entra. Non entra nulla da Game Master o non Game Master. Ma anche quando avevo l'altra, sono venuti a controllarmi, che avevo l'altra, quella con i radiali, non disturbavo manco con quella, che era bassa tra l'altro, però non disturbavo, per che me l'hanno controllata con l'analizzatore di spettro e non disturbavo un tubo io. Erano quelli che avevano le antenne incasinate. Dico appunto, sono le antenne TV incasinate. Però intanto le denunce me le hanno fatte, capito? Si attaccano i subito, non lo so. Vabbè, mi hanno fatto danno pure in altro senso. Prendi chi su. Sono soddisfatti, so. Sono soddisfatti. Vabbè. Ui. Gianni Cantelli. Con Marisa Laurito. Sarà cuccato Cantelli, ho preso. Vabbè lui, io me ne vado a mangiare, dai. Al limite ci sentiamo dopo se ci si. Vabbè, già acceso qua. D'accordo. Canta Burgucato, ormai è un tenore. Il tenore di Rinzuri è. Mi ha detto, quando vuoi andiamo a pescare. Laggio domanda del messaggio, mi ha detto, ma devo andare qui, ma devo andare là, dopo vada, aiutate tutti, a fare qui se devi andare. Boh, vabbè. A tutti i dimmi, ci dà retaghisci. Mi ha detto, dovevi pure andare a pescare, ma ha detto, dimmi, non lo dici mai quando vai, vabbè, te lo dirò quando vado. Una volta che l'ha detto. Hai detto no, ti ha detto che dobbiamo andare a fare il peso. Vabbè. Vabbè. Dai, ci vediamo dopo. Tanto Gianni sta cantando adesso e non ci dà audienza. Ma che non entra, È un sampe oramai in pensione. Vabbè, Giuda. Chiudo che devo preparare la roba qua. Ci sentiamo più tardi. Ciao. Ciao. Dai, acceso. Non c'è nessuno al cambio, no? Come mai io dice che tutti zitti, non avete voglia? Three, one, two, three, one, two, three, one, two, three.